stelle rubelli schiede, giacque nel sangue immerso, il foglio ardisce. Signor, sai tu narrarmi? D'Anastasio che fu? Che fu d'Arianna? Amanzio vesi trovi, e di Giustino, quei novelle sian sparse. Perdonami, desio saper con chi favella il labbro mio. Leocasta vedi, d'Augusto la Germania. Gran principessa! E come? A te non è palese di Giustino il trionfo e il ritorno, la sconfitta d'Amanzio, e che fia questo per l'impero di Grecia più bel giorno. Non ti stupire, appena posto in catena, il misero Germano cerca il sangue a me stesso, insegue il fato, prendesi il sangue mio, men sventurato. Entro in mio davator, di sudito fenedio mi celai, ma di Giustino nel nome c'è il sudito, degna del re gestanze, ed ed ogni altro premier qui trovato, e per mia gioia sento il contento maggior d'ogni contento. Ma tu chi sei? Servo a Giustin son io. Servo a Giustin? Dio amico, ritorna il tuo signor. Dimmi che il cuore, e che nel duolo imperso, presagi la vittoria il vincitore. Dimmi che fra me io a lui sarò. Pronto obbedisco e spero recar pace più bella.